Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Scrivo a proposito della proposta del PD di elargire assegni di disoccupazione a tutti i lavoratori che purtroppo, a causa della crisi mondiale, si sono trovati in gravi difficoltà. La mia proposta parte dal principio che, purtroppo, lo Stato non ha soldi da regalare e quindi, innanzitutto, bisognerebbe partire dalle province e dai comuni. Occorrerebbe individuare a livello comunale o provinciale le mansioni dove esistono carenze di personale, che possono andare dalla pulizia dei fossi per la raccolta di acqua piovana, alla carenza di organico per le pratiche comunali o provinciali, come pure a, e perché no, corsi di formazione per i dipendenti, pensando ai disoccupati di industrie informatiche o istituti scolastici. Comuni e province dovrebbero effettuare un elenco di esigenze e dovrebbero essere istituiti dei centri di raccolta dati. Quando dei lavoratori vanno in mobilità o perdono il lavoro, compatibilmente con le capacità, si rivolgono al comune o alla provincia, che nel giro di qualche giorno indirizza il lavoratore all'impiego più idoneo di, chiamiamolo così, servizio sociale. Magari questo nuovo impegno avrà una durata massima di un anno, due anni, si vedrà. La parte economica necessaria al loro assegno potrebbe derivare dai mancati sprechi, dagli interventi di urgenza evitati, dalla maggiore rapidità con la quale qualche intervento riesce ad essere fatto. A questo punto il lavoratore, o meglio l'ex lavoratore, percepisce un assegno, l'assegno tanto caldeggiato dal PD. Alessandro. Egregio direttore, le scrivo dalla provincia di Treviso, nella quale, come lei senza dubbio saprà, qualche giorno fa hanno scoperto 157 liberi professionisti, commercianti, gente dal reddito molto molto alto, che altro non facevano che dichiarare tramite l'autocertificazione di essere nullatenenti e quindi potevano anche fare le visite mediche senza ticket. Io sono un dipendente di una fabbrica, ho uno stipendio da 1.200 euro al mese e mi sento profondamente indignato dal comportamento di queste persone. Mi chiedo perché i giornali non abbiano pubblicato i nomi di questi signori. Perché non devono essere riconosciuti dalla gente e quindi trattati come meritano? Si dovrebbe tornare alla gogna, come si usava nel Medioevo. Nella pubblica piazza, esposti al giudizio della povera gente. Vi chiedo per favore di seguire l'evolversi della faccenda nel tempo. Vorrei veramente sapere come va a finire questa storia prima che tutto finisca nel dimenticatoio, come sempre accade in questo paese. Franco, provincia di Treviso. Lettera aperta ad Alessandro Baricco. Caro Baricco, nel suo lungo, ammagliante e propiziatorio articolo apparso su Repubblica, lei porta l'attenzione sulla grave crisi economica che il mondo sta attraversando e sulle dirette conseguenze che questa, inevitabilmente, avrà anche per la cultura, il teatro, il cinema, la musica, attualmente finanziate per larga parte dal FUS, Fondo Unico per lo Spettacolo. La sua autorevole penna si abbatte come una scure sul parassitismo delle fondazioni lirico-sinfoniche, sulle lobby del cinema, sugli sprechi di un Ministero della Cultura che forse, a questo punto, non ha più ragione di esistere. In mano al privato, dunque. Diamo adito all'iniziativa, alle agenzie, alla concorrenza, al mercato, ai finanziatori. Come è mai possibile che in un momento in cui persino in Italia, che è l'ultimo Stato che se lo può permettere, si parla di nazionalizzazione degli istituti di credito, lei ipotizzi una definitiva privatizzazione del sistema di produzione culturale? Quindi, banche pubbliche e teatri privati? Comprendo e approvo appieno le sue critiche al decadente stato dei baracconi post-statali, come le fondazioni lirico-sinfoniche, ma l'approccio alla soluzione delle problematiche di ristagnazione culturale, scarsità di idee, mancanza di innovazione, nonché onerosi costi di personale il più delle volte poco stimolato e in alcuni casi estremi, parassitario, non è sicuramente quello da lei proposto. I teatri non propongono il nuovo e non precorrono i tempi perché in mano al lobby di vecchi registi, scenografi e artisti in genere. Producono debito, perché amministrati da un establishment di sovrintendenti che attualmente costituiscono l'unica viziosa circuitazione di cui tanto si parla. Svecchiamo un po' il sistema, quindi, e incentiviamo le nuove correnti in grado di leggere il nostro tempo, perché protagonisti in primis di questa contemporaneità e non di quella di 30 anni fa proposta dai maestri ultra-ottantenni che regnano incontrastati sulla produzione teatrale italiana. Inoltre, è necessario innalzare i finanziamenti al pari della Francia e degli altri paesi europei

Francesco, Torino. Caro Francesco, le dico solo una cosa, grazie per la sua testimonianza. Un fatto è superare gli anni di piombo e magari anche perdonare quanti hanno compiuto atti criminali e si sono pentiti per i propri crimini. Un'altra cosa, inammissibile, è estendere questo perdono e farlo diventare una giustificazione per quegli atti. Il terrorismo non ha mai avuto, né poteva avere, giustificazioni politiche. In Italia, se togliamo il burro, ancora rimane il pane. A parte la povertà fisiologica, in Italia parlare di crisi significa eliminare il superfluo. Ed era ora. Due o tre macchine, telefonini, satellite, ristoranti, eccetera. Togliamo il superfluo e otteniamo l'essenziale. E poi ricostruiamo una spesa sostenibile. Guardiamo i nostri armadi e rendiamoci conto che abiti e maglioni non possono essere usati per pagare il mutuo. Mauro. Su Vanna Marchi e figlia, credo che Sgarbi non abbia tutti i torti. Nel nostro paese i maghi, le cartomanti e i cialtroni vari non mancano. Questo significa che la domanda di servizi di consulenza magica è alta. Perché non li mettono dentro tutti? Ricordo che in un servizio di Striscia la Notizia venivano mostrati alcuni stralci del dibattimento sul caso Marchi e si vedeva una dottoressa in medicina che testimoniava come vittima. Una dottoressa. Già non comprendo come facciano alcuni dottori a credere a cavolate come l'omeopatia, ma ce ne sono alcuni che credono nel potere protettivo dei rametti di edera benedetti da un parrucchiere brasiliano. Simone. Trovo assurdo aver condannato a 9 anni Vanna Marchi quando i colpevoli di altri reati, tipo ammazzare in strada sotto effetto di alcol e droga, stupri, eccetera, se la cavano con molto, molto di meno. Una volta farsi imbrogliare veniva nascosto per vergogna, oggi ci si vanta e si cerca il risarcimento. In effetti, come si fa a farsi imbrogliare da una pazzoide simile? Marilena. Gentile direttore, ho ascoltato la sua risposta all'imprenditore al quale era stato tagliato il fido. Il motivo? Tutelare gli interessi immediati della banca. I banchieri sono interessati solo ad una cosa: massimizzare il guadagno minimizzando il rischio. Prendono stipendi elevatissimi, correndo pochi rischi. Gli imprenditori che rischiano hanno tutta la mia stima, banchieri e bancari no. Forse la mia è un'intuizione sbagliata, dopotutto sono solo un magazziniere ignorante. Certo, imparo molto dalla sua radio, ma sono anche consapevole di essere ignorante. Guido. Erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Il prossimo appuntamento con le vostre lettere a Radio 24 è oggi pomeriggio alle 18:30. Continuate a scriverci.